Carlo, buongiorno. Buongiorno, io sono andato in banca per prendermi dei soldi perché io sono un pensionato, no? E nel gruzzoletto, che erano 500 euro, tutti da 50, c'era dentro una banconota falsa. Io mi sono accorto la cassiera di un supermercato, mi ha detto: guardi, questa è falsa. Voleva ritirarmi, mi ha detto: no, guardi, non me la dia, io vado in banca e dico: se me l'avete data voi. Però ci ho pensato bene, se io vado in banca, questo prende ma la taglia. E alla fine della fiera sono riuscito a sbolognarla. Quindi l'ha rispacciata tramite... anche lei, incorrendo nei rigori della legge. In una farmacia, cosa devo fare? Io sono un pensionato, mi ha 50 euro, sono 50 euro. E non c'ha la voce da pensionato, sta buffando. Ma c'è la banca, ce l'aveva in banca il cassiere. Perché non se la sono presa, se la sono sbolognata la banca? Questo non riesco a capire. Sentiamo cosa ci dice la nostra amica Carla Delfino, che ricordo è un'imprenditrice, ha fondato la Imperial Emporium, che è un'azienda che si occupa di macchinari per il trattamento e la verifica del denaro, ma anche dei documenti. E lei ormai è un'esperta a livello mondiale sulla contraffazione del denaro. Capita che al bancomat possano arrivare soldi falsi? Sì, sì, capita. Capita purtroppo. In quel caso uno, non dovrebbe capitare. Uno è come la legge del Menga, perché non è che può ritornare alla banca e dire: me l'avete data voi, figuriamoci, nessuno ammetterà mai questo. Ma in teoria con testimoni si può fare, cioè se tu sei in quell'occasione. Ma siccome nel banco c'è scritto: mantenete lontane le persone, che nessuno è un testimone. Lì è una questione veramente spinosa. Comunque. Secondo lei lo fanno apposta oppure? Non si sa. Diciamo che ci sono veramente tanti casi di banconote false che vengono restituite dalle banche alla clientela, e per questo è entrato in vigore, sta entrando in vigore una nuova normativa della Banca Centrale Europea, un rilevatore cui, al banco, per cui tutte le banconote che vengono poste in ricircolo, cioè che vengono restituite o dalla posta o dalle banche, devono essere controllate prima di essere restituite al pubblico.